Vabbè, dai, ti diverti, passi un'ora spensierata la tua giornata, vabbè. Ciao Gaucho! Ti leggo un fax e dopo metto una canzone adatta a questo fax. Sono tristissimo, infatti lunedì ricomincio l'università e oggi ho scoperto che tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16 ho lezione. Come farò ora a seguirti in diretta e mandarti fax? Non è che ti trasferiresti la sede del tuo programma all'università? Così potresti convertire al verbo metal tutti gli zarri che sono lì. Ah, potrebbe essere un'idea, una radio dall'università, in America ce ne sono tantissime. Mi consolo sapendo che un mese sì e uno no c'è la pausa esami, durante la quale potrò seguirti naturalmente dimenticando lo studio. Hai detto che chi telefona di fare il verso dello scimmione? Beh, io te lo faccio. Solo verso il tuo scimmione, va benissimo. Tanti saluti. Guarda, ecco, sapevo, si sono svegliati. Ah, ok. Tanti saluti da Paolo. Ci sentiamo domani per il mio fax d'addio. Mi dispiace Paolo che non potrai più seguirci. Noi abbiamo 8 ascoltatori, saranno 7 a questo punto. Però non ci possiamo fare nient'altro che dedicare a voi 7 che rimanete questa canzone, perché è peggio rimanere che andarsene. E a te che te ne vai invece a studiare, questa canzone è per te, solo per te. È una canzone tristissima, però cantata da una donna eccezionale, Maria Callas. Ciao Monkey Gaucho, questo è un fax e Monkey Gragra, come vi avevo promesso ieri, aspetta che accendo di più la luce perché non ci vedo, ieri ti scrivo il mio ultimo fax prima dell'inizio dell'università. Ne approfitto per narrarvi la prima volta che ho visto Gaucho, Marco Gravelli e Roccia in via Locatelli, anche rima. Via Locatelli è la via dove c'è Rock FM, dove abita Rock FM, la popolazione di Rock FM. Era il maggio 1995 e Gaucho dal suo show continuava ad invitare gli ascoltatori alla sede della radio, appunto, per la festa di Gravelli, giustamente per il compleanno. Io decisi di andare a quello che sarebbe sicuramente stata la festa dell'anno. Uscii da scuola 2 ore prima per poter essere a Milano, da dove arrivi, in tempo. Ma arrivato in via Locatelli non c'era nessuno. Erano forse tutti già entrati? Sto lì sotto ad aspettare per mezz'ora quando una bella ragazza che continuava ad entrare ad uscire dalla porta, Claudia, io penso che solo lei continua a uscire dalla porta e entrare dalla porta di Rock FM, mi conduce alla radio e mi chiede se sono lì per fare la festa. Le dico di sì e lei dice che non bisognava stare ad ascoltare quello che dice Gaucho perché si era inventato tutto. Non era vero, cioè non è venuto nessuno. Come ricompensa però mi fa incontrare Marco Gravelli in persona, a cui faccio gli auguri di compleanno e mi regala bellissimi adesivi di Rock FM, eccetera eccetera, e alla fine me ne vado maledicendo Gaucho, che però è come una droga e che quindi non riesco a non continuare ad ascoltare il suo show, che poi questo non è uno show, è un intrattenimento tra di noi amici, ogni pomeriggio ci troviamo come essere al bar. Allora Gaucho, non ti senti in colpa? Molto, mi sento molto in colpa, però è stata un'idea di Graziano. Ecco, esatto. Ok. State calmi, adesso vi do da mangiare. Ci sentiamo tra qualche settimana e vi seguirò in replica. Tanti saluti da Paolo di Monza. PS, vorrei salutare i miei amici Alan, Lorenzo il Cattivo, Davide Prima Repubblica, Davide Castro Comando, Silvia, Gabriele il Verme, poverino, anche umano, Gabriele il Verme umano, Cesare che non mangia la carne stasera, Rossella, Alessia, Luigi e Mauro. Ciao a tutti, ciao anche a te. Grazie per avermi mandato il fax. Buono studio, perché questo amico non ci potrà più ascoltare al pomeriggio perché studia, va all'università. Bravo. Manda e soprattutto fai ascoltare tutti i tuoi amici che invece hanno l'altro turno dell'università, quelli che al pomeriggio sono a casa, ok? Ti passo Stefano.